avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi rendo conto che gli alluvionati del Veneto lo considereranno un insulto, ma non vi dico la difficoltà questa mattina per me e per un ospite che ho accanto a me di arrivare allo studio della radio. Anche Roma sembra sotto una pioggia battente che a tutto farebbe pensare, qualunque sentimento ispirerebbe, meno che quello dell'amore. Dico questo perché questa mattina avrei voluto parlare d'amore. Lo dico in partenza, quindi, per non lasciarmi prendere in castagna chi mi ascolta con molta attenzione. Esistono due maniere per parlare d'amore. La maniera complice di chi è innamorato, di chi è deluso d'amore, di chi pensa all'amore, che cerca consenso, cerca complici, cerca alleati o cerca comunque compagni di sventura. Non è il mio caso questa mattina. Oppure la situazione di quello cinico, distaccato, che di tutto vorrebbe parlare meno d'amore, che guarda gli innamorati come una sorta di pulcini bagnati, di cui non capisce lo spessore, non capisce la sostanza, non capisce il dolore, dice: ma di fronte a quello che passa a me nella testa in questo momento, cosa mai volete che sia per voi l'amore? L'amore è un momento passeggero, è una malattia che poi guarirà, oppure è una vostra afflizione, una vostra proiezione, qualcosa che fate perché vi annoiate, non avete niente di meglio da fare. Beh, questo è il mio atteggiamento, perché oggi comunque parleremo d'amore. È completamente diverso da me. Lui ha cominciato a lavorare all'età di 13 anni, è andato via di casa a quell'età lì, quindi insomma si è fatto le sue belle esperienze. Ha frequentato, diciamo, personaggi, persone, ambienti che nel mio mondo non si dovrebbero tanto frequentare, personaggi che io reputo un po' loschi, un po', insomma, che le cose tanto corrette non le combinano. Io invece sono famiglia borghese, abbastanza benestante, e ho studiato fino a 26 anni all'università, e quindi insomma un mondo completamente diverso, cioè io certe cose le ho scoperte ora con lui che succedono nel mondo, e quindi questo mi spaventa, però c'è un'attrazione fortissima, quella che io penso di non aver neanche mai provato per lui, per un uomo, neanche con mio marito, che è quell'attrazione che quando vedi la persona non gli resisti, cioè non c'è modo di sfuggire a questa cosa. La ricordate? Questa è una nostra ascoltatrice che si confessò con noi qualche tempo fa, l'abbiamo usata come case history, come situazione limite, come circostanza in cui il fulmine, lo strale dell'amore ti coglie, ti prende improvvisamente, quindi l'architetta si innamora del muratore. Non c'è più marito, non ci sono più figli, non ci sono più doveri, non ci sono più necessità, non ci sono più patti, non c'è più rettitudine, non c'è più possibilità di condurre una vita un po' meno rischiosa, c'è il precipizio, c'è questo precipizio fantastico in cui ci si butta. E perché ci si butta nel precipizio dell'amore, pur essendo consapevoli dove si andrà a finire? Si rimarrà schiacciati, si rimarrà distrutti, si rimarrà devastati, ma qualcosa rimarrà dentro che varrà la pena giustificare quella devastazione? 800 24 00 24, questa mattina vi prego, approfittate la tediosa giornata, la giornata antitetica ogni storia d'amore, eccetto chi in questo momento è innamorato. Quest'uomo si presenta normalmente con abiti che lava, credo siano una volta al mese, e porta spesso jeans molto consunti, scarpe da ginnastica o Clarks molto consunte, addirittura mette cappotti usati, sdrucciti, ha un modo di parlare che è quasi un gruffolare, nel senso che sembra l'uomo lupo. Non posso negare invece che quest'uomo nelle sue manifestazioni sessuali sia anche incredibilmente coinvolgente e quasi oscuro. Altra situazione che conoscete: l'innamorato è l'uomo bestia, del puzzone, dello schifoso, di quello con le unghie nere, di quello con le appendici caciottose, di quello con le ascelle puzzolenti, di colui che tutto sembrerebbe meno che il ritratto della concupiscenza, del desiderio, della tenerezza, eppure l'hai presa. Ma qual è questa misteriosa molla, questo residuo lontano di autodistruzione nella nostra natura umana che ci porta a innamorarci anche in situazioni così devastanti? Ma dal punto di vista dell'uomo posso dire, attingendo a mie lontane, remotissime esperienze, bisogna sempre dire così, che in effetti molte volte ci si spiega a posteriori, dice: ma perché io ho palpitato per questa persona? Qual è stato il motivo? E uno fa una sorta di analisi. Mi diceva delle cose uniche rispetto all'altra persona? No, non mi ha mai detto niente, dicevo tutto io, stava sempre zitto o zitta. Aveva una carnalità che mi prendeva nei sensi, provavo dei piaceri inarrabili. Ci pensavo bene, ma manco questo. Sì, si faceva, si desiderava farlo, ma era come fare un'altra cosa. Si hanno ricordi probabilmente ben più pregnanti di attività ginniche e piacevoli con persone che non hanno lasciato nessuna traccia in noi. E era particolarmente attraente, bello, bella. No, ci si pensa bene, ma non c'aveva niente di che. Eppure ha lasciato delle tracce profonde, delle ferite insondabili, incurabili. Cosa è accaduto forse? 800 24 00 24. Se vi trovate in situazioni simili, lo dico perché sono circondato in questo momento da amici e amiche che mi prendono come spalla in cui piangere, io avendoci altri cavoli da pelare, come si suol dire fra gentiluomini, ho presto molta poca attenzione. Ma ti prego, vediamoci, non riesco a capire perché, e ti prego, usciamo insieme, vorrei parlarti. So già che io dovrei stare lì, ascoltare uno che mi piange, mi dice: ma perché secondo te mi ha lasciato? Fino all'ultimo giorno sembrava innamoratissimo o innamoratissima, e ci siamo amati, abbiamo fatto l'amore in maniera meravigliosa, e il giorno dopo sentivo una sorta di piccolo prurito sulla fronte e non riuscivo più a passare dalla porta. Cosa sarà mai successo? È inspiegabile. No, non è per niente spiegabile, è perfettamente in linea con quelle che sono le alchimie banali dell'amore, e questa mattina cerchiamo di analizzare. Ma visto che non voglio dare una visione parziale dell'amore, io questa mattina vi darò due punti di vista, perlomeno delle complementari competenze per definire cosa sia questo inerrabile, piacevole, forse è l'unica cosa per cui vale la pena di vivere, di affaticarsi, di studiare, di lavorare, di affrontare ogni giorno la mattina. Perché lo facciamo? Lo facciamo sperando che forse ancora ci innamoreremo, o perché una volta siamo innamorati ancora ci portiamo il fardello di responsabilità perché una volta abbiamo creduto nell'amore. Accanto a me, per la parte razionale, il grande Giuseppe Neri. Beppe, buongiorno. Ciao Gianluca. Neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Puoi darmi subito una veloce sintetica lettura di quello che potrebbe essere, se tu volessi essere, ma non lo sei perché so che sei uno che si è molto innamorato e molto adatto in passato, sei della mia stessa generazione. Ne abbiamo smesso di dare da almeno 40 anni, diciamo così, che almeno fa piacere a chi ci ascolta e rassicura. Ci invecchi un po', Gianluca, ci invecchi un po'. Vai. 14 anni, i primi palpiti e gli ultimi. Siamo della stessa generazione. Beppe Neri lo conobbi una volta a un aeroporto, un giorno attendendo, e non sapevo se sarebbe stato uno degli amici che maggiormente segnarono piacevolmente la mia vita familiare, ludica, personale, intellettiva. Beppe, se tu volessi per un attimo dimenticare questo nostro lato tenerone e tendente all'innamoramento compulsivo e continuo, potresti definirmi in termini chimici perché una donna si innamora di un puzzone caciottoso e perché un'altra prende un muratore sporco di calcina quando lei è una raffinata, profumatissima, intimamente intelligente gerrima architetta? Beh, quelli della generazione prima di noi, i neurofisiologi, avrebbero detto che è l'amigdala che comanda. Cioè, noi siamo degli animali che abbiamo conservato tutto ciò che di rettile e poi di specie superiori è esistito prima di noi darwinianamente. Di rettile? Di rettile, perché è il rinencefalo che controlla questa attività. Per cui è assolutamente spontaneo che la finalizzazione a scopi riproduttivi in una specie evoluta si elabori e si complichi con dei contenuti accessori. Sono le penne del pavone che non abbiamo, l'amore. Sono le penne del pavone o sono... il discorso dell'innamoramento dal punto di vista neurofisiologico non è tanto il fatto in sé. È come tu lo immagini, come tu lo concepisci, come tu lo allucini e come tu poi te ne crei un ricordo e un'immagine in base alla quale poi vivi l'esperienza, non il fatto in sé. A me ha molto confortato nella vita pensare che le persone in cui mi innamoravo fossero dei sacchetti di cellophane in cui mettevo dentro tutto quello che io volevo vedere in quella persona. Il momento che l'amore finiva, mi riprendevo semplicemente il mio immaginario e così rimaneva un sacchetto trasparente, vuoto, senza nulla. Mi piace tanto l'idea del sacchetto, non condivido il trasparente, perché se fosse scuro sarebbe poco come una black box da cui tu poi a caso puoi tirar fuori delle cose che non... No, ma ce le metto io, fa conto, è come un manichino di cristallo. Io non andare sui manichini che andiamo, no, su un terreno scivoloso. Va bene, visto che poi probabilmente molti potranno sentirsi oltraggiati perché in questo momento hanno le ferite ancora purulente, aperte e doloranti e beanti di loro storie d'amore, stanno vivendo i di lieci amori, quelle signore mi chiamano, amo mio marito da 50 anni, fra noi non c'è stato mai nessun dubbio, non c'è mai stata nessuna incertezza, voi non capite il valore di questo rapporto di fedeltà. Qualcuno disse: l'amore è soltanto per i coraggiosi, per gli altri, per i vigliacchi, per i palvidi, per le persone normali esiste la coppia. Costei la rinchiudemmo qualche mese fa in un faro a Capo Finisterre. Sapete esattamente che Barbara Alberti è chiusa da qualche settimana nel faro di Capo Finisterre per fare la sua trasmissione La Guardiana del Faro, che potete ascoltare piacevolmente il sabato sera, domenica mattina su Radio 24. Vediamo se il collegamento con il faro di Capo Finisterre, che è frastagliato dalle acque perché l'oceano in questo momento è tempestoso, ci sono gabbiani, ci può dare la voce di Barbara Alberti. Alberti, ci sente? Pronto, Nicoletti? Sì, sì, sì, vi sento. La sentiamo, sento un po' lontana, però è perché sta nel faro. Certo. Ecco, lei è riuscita a capire quello che ha detto il nostro amico neurologo Beppe Neri. Lei invece ha la sua formula, visto che è circondata da gabbiani, dalle onde del mare, e ogni tanto ne arriva questo messaggio in bottiglia di signore e di signori che le raccontano le pene d'amore. Ha mai pensato che tutte le pene d'amore, quindi non darebbe più giustificazione all'esistere di consigliere d'amore, siano delle questioni chimiche, il resto non esiste? Ma io intanto più mi occupo di storia d'amore e poi ci vedo sempre più scuro, voglio dire, ma sono certa che Beppe Neri abbia ragione e anche lei, ovvero che l'amore sia un'astuzia della natura. Altrimenti come... Io lo dico per me, per giustificarmelo. No, ma io sono certa. Però questo non esclude il mistero. Il fatto che ci siano delle spiegazioni chimiche non esclude il mistero. Il punto, secondo me, conta una cosa soltanto. Conta il fatto che quando capita, con tutte le sue disgrazie, i suoi dolori, che sono poi un corteggio meraviglioso, è veramente un riscatto della condizione umana, ma forte. È il momento in cui non te ne frega più niente neanche di morire. È il momento in cui saltano i calcoli. È il momento in cui, come diceva prima Nicoletti, tutte le cose escono fuori dal sacchetto, le cose che non sapevi di avere. È la formazione di noi, è la scoperta. È veramente... Io credo che né religione, né arte, né droga possono paragonarsi a questa allucinazione... Beh, che è una spinta alla vita formidabile, che poi ti porta al suicidio. È un allucinogeno, per Alberti è anche un allucinogeno, ma sono d'accordo che poi l'allucinogeno in sé può essere una sostanza che noi casualmente cogliamo da madre natura, o può essere una sostanza elaborata in gabinetti chimici che ci dà lo stesso effetto. Sentiamo qualche ascoltatore, stanno rispondendo, quindi l'amore è un argomento che suscita sempre grandi reazioni. Francesca. Eccomi. Avanti, lei ha a disposizione due esperti, quindi potremo questa mattina darle l'illusione e risolvere qualche suo problema. È fantastico. Nulla, io premetto che ho avuto molte storie, sono stata sposata, ho sempre tradito. Questa è la... Quindi lei è propensa all'intima d'azione, questo bisogna dirlo per fare un quadro clinico perfetto. Io ho sempre tradito tutti, fin quando è arrivato lui, il compagno col quale ho condiviso 3 anni meravigliosi. E ancora non l'ha tradito? E ancora non l'ho tradito, mi ha lasciato, perché io sono effettivamente la gelosia in persona, quindi ero diventata un po' pesante, ma il problema più che questo è che fondamentalmente, nonostante sia finita tutto quanto, siamo dipendenti l'uno dall'altro, cioè lui non è più riuscito ad andare con altre donne. Beh, questo glielo dice, sa, noi uomini diciamo sempre questa cosa. Immagino, però è la riservina. La chiamiamo la riservina, lo sa cosa? Glielo dico non per toglierle poesia, poi certo. L'esperto. La riservina significa tenere sempre in bagnomaria qualcosa che si è mollato, dire sempre mi manchi, non so fare a meno di te, mai più riuscirò ad avere con altri rapporti come tu. Intanto uno poi si fa i fatti suoi. Tante volte venisse la vaghezza, un pomeriggio di tristezza, un giorno che uno non c'ha niente da fare, si becca la riservina, è lì calda, gli dai una riscaldata e te la usi. Sì, però io non voglio credere a quello che è incredibile, però in realtà, conoscendolo, lui è sempre uno di quelli che diceva che è più facile aprire una porta che riempirla. Adesso non è poetico, non meno romantico, però è una... Non ho colto. Aprire una porta piuttosto che riempirla? Sì. A una porta? Una sporta. Ah, una sporta. Quindi lei è la sporta, una volta aperta l'ha riempita e poi se n'è andato, questo? Lui l'ha riempita, però non è facile aprirne altre, nel senso, lui dice, io non sono se non sono coinvolto non riesco fisicamente. Sono le bestialità che dice ogni uomo per illudere voi donne. Guarda, io le consiglio, adesso le passo gli esperti. Il mio consiglio di persona che non ne sa nulla, totalmente inesperto, ha avuto una vita da chierichetto, quindi che ne so io. Però, secondo me, a lei converrebbe cercare una volta tanto di rimetterci insieme, mettergli delle corna stratosferiche, così anche lei sta tranquilla e non si pone più il problema. Prima Barbara Alberti, mi sembra più materia sua questa. Ma io sono annichilita da quello che ha detto Nicoletti, non so, non, Non so, io invece credo che possa essere casto lui, lo credo fortemente. Il punto è che, sa cos'è, il punto brutto è quando c'è una bella commedia di Vichievitz, che sono due che sono stati insieme e c'è una cosa di caucciù che li tiene, c'è un, e non riescono a spiccicarsi. La giusta prevenzione in un momento particolare, no, giusto? No, è una corda di caucciù che li tiene, ed è una cosa disperante, un elastico. E certe volte è anche una scusa per chiudersi e per non darsi più, come dice appunto, per troncare per un po' con l'intima d'azione, perché c'è anche questo imperativo a stare in coppia. Ragazzi, da soli si sta pure da Dio, si chiude una porta e si fa quel che si vuole. Beppe Neri, la storia della sporta. Qua c'è un'ambiguità lessicale. Alberto dice porta, ma la signora è sporta, no, in quanto c'è contenitore di ortaggi. C'è un'ambiguità lessicale che si apre a molte interpretazioni in cui tu sei maestro. Stavo dicendo però che oltre alla datrice strategica, adesso abbiamo scoperto anche il predatore strategico, perché con questa tua idea della riservina poi si beh, dai, la conosci benissimo, il personale... Beppe, non fare... No, io volevo invece riflettere sul fatto che in fondo la signora ti dice, da un lato io ho sempre sistematicamente con meticolosa dedizione tradito, soltanto che quando il gioco delle parti ha fatto in modo che lei si legasse in maniera stabile con questo signore, allora è diventato un discorso di predazione, nel senso di mantenimento dell'esclusiva del possesso. Ha rinunciato al suo unico talento. No, ma è un talento che andava speso su un mercato di scambi commerciali multimodale, secondo me. Una volta una trovata la formula felice dello smignotteggiamento, non può tornare a essere una persona corretta nei rapporti amorosi. Infatti ne è uscita devastata. 800 24 00 24, tra un istante, dopo un'informazione dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt d'état. 800 24 00 24, siamo qui a parlare d'amore in questa mattina molto travagliata dal punto di vista atmosferico, però allo stesso tempo probabilmente ispiratrice di confessioni amorose. Per rispondere ai vostri dilemmi d'amore che avrete la bontà di raccontarci e di mettere sul nostro tavolo anatomico, abbiamo due tipi di esperti: un esperto in cuore e un esperto in meccanismi neuronali. L'esperta in cuore, vediamo se riusciamo a recuperarla, sentiamo anche lei, sta in condizioni atmosferiche peggio di noi, è Barbara Alberti dal Faro di Finisterre. Barbara è in collegamento, ci sente? Pronto? Sì, lo sento. Ecco, rispetto alle persone che le scrivono, trova qualche differenza con in realtà quelli che stanno chiamando noi in questo momento? Sento un piccolo campanellino che le sta dando forse qualche segnale. Sì, Barbara, oddio, c'è qualcosa che non sento bene. Sì, dica esattamente, rispetto alla storia che ha sentito, un piccolo riassunto. No, nessuna differenza, a loro non gli frega nulla di raccontare le storie, cioè non vogliono una risposta, loro vogliono sfogarsi qui, e basta. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal Faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Ha un plafond di energia limitato, mentre ricaricano le batterie entra in azione il gruppo elettrogeno a tampone. Presento il secondo ospite, ma sarà questione di pochi minuti. Beppe Neri, amico, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Trovi troppo cinico e fuorviante la mia risposta, mi ha detto meno l'intervallo, a questa signora che aveva un problema così pregnante, però io ho giudicato di tradimento nella sua vocazione viscerale, quindi giustamente punita. Ma il problema è quanto fosse consapevole della sua autentica vocazione, nel senso che il suo vissuto rispetto a questa vocazione poteva essere diverso dall'osservazione che ne facevi tu. Cioè, quindi tu forse le hai scoperto qualcosa. Da medico, che l'intima datrice geneticamente supportata questo tipo di attività, quando tradisce la sua radice profonda, in realtà ne esce sconfitta. Beh, se tradisce la sua vocazione naturale e la sua inclinazione spontanea, sono d'accordo con te. Giustamente, infatti, soffre e diventa vittima dell'uomo che millanta comunque trasporti e codelunghe amorose che in realtà non esistono. Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha una storia d'amore abbastanza devastante da raccontarci? Sì, esatto. Tra l'altro ci tenevo a dire che sono architetto, per cui ho risposto esattamente al target che lei cercava. Cioè siete una categoria a rischio con le maestranze, esatto, vero? Sì, perché non era un muratore, ma in realtà era un fornitore, quindi comunque un ragazzo di un alto livello, anche se intelligente. Di materiale idraulico, di cosa? No, di materiale elettrico. Materiale elettrico. E quindi le ha dato la scossa. Esatto. Ma questo perché? Perché avete contatto in realtà con persone che normalmente la vita non incontrereste mai, abituate ai vostri flaccidini colleghi, esatto, sempre abituati al tavolo a disegno. Ma storie con architetti maschi, una categoria pessima. Sono noiosissimi. Assolutissimamente. Per cui, per devo cui dire ci, si rivolge, che... ci si rivolge a persone che hanno un maggiore spessore virile, forse. Sì, forse sì, ma maggiore concretezza, semplicità. Comunque... Beh, allora com'è andata con l'elettricista? È andata che sono stati 3 anni di fuoco, pur essendo io già separata, quindi insomma abbastanza, ho 41 anni e qualche esperienza alle spalle l'avevo, però lui mi ha fatto capire esattamente cosa vuol dire stare con un uomo e innamorarsi con un uomo. E ciò faccia capire anche a noi, così almeno siamo contenti. Sono stata sua amante per 6 mesi, cosa che non mi sarei mai sognata di fare, perché comunque sono anche una piccola borghese. E gli altri 2 anni e 6 mesi cosa avete fatto? Ci siamo lasciati, ripresi, visti clandestinamente, siamo scappati, insomma tutte cose molto molto forti per le quali ancora oggi comunque sento un trasporto, anche se la mia vita è andata avanti, non mi sono rifugiata in questa storia. Però, quindi insomma, questo mistico langurino che sente ancora per l'elettricista lo colma qualche volta, nonostante la storia che sta coltivando adesso? No, no, perché abbiamo troppe sovrastrutture, ormai finita e stop, però comunque c'è, in realtà c'è, inutile nascondersi. Cioè, se non si consuma non c'è più, non ci prendiamo in giro. Forse sì, è vero. Barbara Alberti, l'abbiamo recuperata, ci siamo? È riuscita a sentire? Pronto? Lei? A sentire? Sì, sì, sì, ho sentito tutto. E cosa dice l'architetta categoria d'alto rischio? Intanto che da queste telefonate viene fuori che viviamo veramente con una differenza di caste, con una distanza di caste come nel Medioevo. Se Dio vuole, però. Perché, sì. Almeno c'è possibilità di scegliere al di fuori della coppia. C'è possibilità di scompaginare un po', sì, di scompaginare, però, ecco, e come diceva lei, certo che gli intellettuali non sono dei grandi amanti, ma non come si usa a dire. Non esageriamo. Ma no, ma non a letto, intendo ma dire anche... che c'è una tendenza al narcisismo, voglio dire, veramente essere guardate da un uomo, capisco che essere guardate veramente da un uomo possa essere una novità per una giovane architetta. E poi un bacio a lei che dice questa cosa che nessuno in Italia direbbe sono un assassino, ma sono una piccola borghese, non lo direbbe nessuno, devo dire. Beh, al suo fascino. Beppe Neri, gli studi fatti sui neuroni a specchio hanno qualcosa a che fare con questo irrazionale senso di simpatia, di empatia, di affezione amorosa fra persone che altrimenti non avrebbero occasioni concrete, razionali, intelligenti per conoscersi, per amarsi e per inseguirsi? Non in maniera diretta, perché gli studi a cui tu fai riferimento hanno una loro specifica attinenza nelle capacità del nostro cervello di modularsi e di mettersi in sincronia con l'attività di un altro esemplare della nostra stessa specie che sta eseguendo dei compiti. Poi in particolare mi sembra compiti con le mani e con la bocca. Ma siccome bisogna essere un minimo rigorosi, non abbiamo dati ed evidenze sperimentali in cui anziché fare dei lavori manuali o aprire e chiudere una scatola o muovere una manopola, il personaggio osservato stava svolgendo un'attività di interazione, come dici tu, di d'azione intima. Allora io mi inventerei delle cose prive di senso se ti dicessi che abbiamo dati scientifici su attività a specchio in relazione all'osservazione di quel tipo di attività. Il modello può essere interessante e stimolante per comprendere in che misura soltanto osservando il comportamento verbale, il comportamento fisico dei nostri simili, noi attiviamo una serie di aree del nostro cervello che sono le stesse che questi soggetti stanno attivando nello svolgimento di quelle attività che stiamo guardando. Quindi sarebbe una... tu sei rigorosissimo scienziato, quindi dici che non è una cosa scientificamente spiegabile, spalmabile sulla passione amorosa, però esiste qualcosa, sta studiando, si è cominciato a studiare sulle scimmie che si guardavano mentre mangiavano o si spidocchiavano, che mentre noi guardiamo una persona sentiamo qualcosa che riflette lo stesso pensiero dell'altra persona, e questo assomiglia molto a quella sorta di sintonia amorosa. Dice: ma noi pensavamo la stessa cosa, vedevamo il mondo nella stessa maniera, palpitavamo assieme, e quindi l'aspetto neurologico sembra quasi che ci prenda per mano, ci conduca sulle stesse strade in cui ci hanno condotto poeti e dolci stilnovisti. Antonio. Buongiorno Nicoletti, quante ore ho? No, pochi secondi e poi la seguo. Pochi secondi? Sì. Ah, okay. Lei dovrebbe scrivere un libro, lo vorrei fare io. Dovrebbe salvare l'umanità con il suo lessico e con i suoi. Sì, dovrei salvare me stesso prima, ma è una cosa quasi impossibile. Dovrebbe distribuirlo gratuitamente per salvare l'umanità. No, gratuitamente l'umanità, è una mazza, scusi. Se lo faccio, lo faccio. No, no, lo deve fare per salvare farne l'umanità. Ma io non ho a cuore la salvezza dell'umanità, no, se no mi chiamavo fare Gesù Cristo. Perché l'amore non esiste. L'amore è come non esiste la religione. Lo dice che è stato segato dall'amore, ma se lei era innamorato era convinto. No, no, non sono, sai, ho un sacco di donne che non, l'amore è così come la religione non esiste. Ma di uno di donne esiste può averle anche a vagoni. No, esiste. Però possono passarci addosso come si passa la cremina che uno si dà la mattina dopo aver fatto la barba, dipende. No, ne passa no, una esiste e ci lascia un buco che ci vediamo da una parte all'altra. No, no, esiste la spiritualità ma non esiste la religione. Esistono le attrazioni ma non esiste l'amore. È statistico, quanti miliardi di persone siamo sul pianeta, è impossibile che io possa avere un rapporto in esclusiva con una sola persona e pensare che solo con quella persona io potrò vivere, è patetico, è ridicolo. E sono assolutamente d'accordo con lei, il contenitore è bellissimo, ho sempre pensato io al contenitore, dove io ci infilo dentro delle cose e poi le riprendo, il mio partner è un contenitore, ci infilo dentro tutte le mie. E lei lo infili nel contenitore, ognuno si accontenta come può. Barbara Alberti dal Faro. No, ma che devo dire, sono molto lenta. L'ha detto lui, Nicoletti. No, sono molto lenta da lei, Nicoletti, no da lui. No, da lui. L'ha detto lui. Ma infatti io penso che trovo che sia un cinico questo signore, che in realtà si perde la parte migliore, perché essere innamorati, con tutto che faccia male, si perde l'illusione, si perde il grande privilegio dell'illusione. Io amo l'illusione. È una fabbrica di salute spirituale, fisica, è una fabbrica di sensazioni che altrimenti sono irriproducibili. Scusi Nicoletti, non vorrei. No, no, questa cosa qua no, lei è l'esperta. No. Io sono ma d'accordo. Che esperti, sono come Vanna Marchi, ma che scherza, cioè sono una tuffatrice, appunto, sì. Beppe Neri, questo aspetto che sembra aver risolto tutti i problemi individuali, cioè non credo nell'amore, l'amore è soltanto una sovrastruttura, questo di solito lo dice il grande deluso l'amore. O ma scusi, lei dice non credo nell'amore, già mi fa una fede, voglio dire, già sbaglia. Certo, come gli atei, o i bestemmiatori, che è la più grande affermazione di fede di chi bestemmia, quindi li cacciano dal Grande Fratello, ma sono gli unici che meriterebbero di aver l'anima salva, gli altri fanno tutti finta. Beppe, scusami. No, io prendendo spunto da quello che diceva questo nostro ascoltatore, mi rifarei a quello che dicevi tu prima con le scimmie, perché noi abbiamo in neurofisiologia un bellissimo modello, che è lo studio di una specie di scimmie che si chiamano bonobo. Famosi bonobo. I quali, quando hanno dei conflitti, li risolvono facendo l'amore. Nella posizione del missionario, gli unici primati. Su questo aspetto tecnico non ho dei dati sufficienti per confermare, perché mi voglio augurare che i bonobo abbiano una fantasia anche stereoscopica abbastanza varia. Però il riferimento al nostro ascoltatore mi fa pensare alle mura del castello. Cioè, ho la sensazione che ci sia la necessità di trincerarsi dietro delle mura abbastanza solide del proprio castello, perché probabilmente il mondo circostante, popolato anche di donne, non è tanto amichevole, non è tanto rassicurante, per cui devo avere un buon ponte levatoio che mi difenda. Io penso che convenga lasciarsi andare all'amore e dimenticare questa sorta di cautela e guarentigia preventiva che ci fa vivere razionalmente, star bene, perché attizza di più. Quando uno è in una situazione di folle innamoramento, è molto più trasportato. La giornata, si aprono le giornate e sono delle giornate meravigliose, anche se piove, anche se c'è la tempesta, tutto sembra più sopportabile. Poi certo, il carico è questa roba finisce, a un certo punto finisce, uno ci sta male, ma anche noi finiamo, tanto vale. Lì ci sono degli studi molto belli fatti dai californiani, i quali dimostrano, con delle tecniche che misurano alcuni neuromediatori, come la concentrazione soprattutto della dopamina nel cervello sia particolarmente elevata o sotto uso di certe sostanze, o in caso di innamoramento recente e molto intenso, o in caso di disturbi di tipo psichiatrico piuttosto importanti, intendendo per questo che c'è un'equivalenza fra la follia e la follia d'amore. Dal punto di vista dei neuromediatori ci sono dei dati. Quindi vede Alberti che alla fine la sua teoria che l'amore sia una droga corrisponde a quello che è la punta più avanzata degli studi neurologici in campo di amore. Sì, sì, no, non ho dubbi, non ho dubbi. E insomma, il punto è questo: per esempio, io ho sempre usato l'amore per scrivere, l'ho proprio capitalizzato, anche un semplice pensiero d'amore. Io ho scritto un libro ultimamente che era, per 8 anni ho preso appunti su cose d'amore, mie o di altri. Ma in passato, proprio mi ricordo una volta un ragazzo che mi lasciò, ma ero proprio giovane, ho appena cominciato a scrivere, e dissi, aspetta, fammi finire il libro, illudimi per un po', fai finta. Poi naturalmente non esiste quando sai che l'altro fa finta, però c'è una frase bellissima in un film che ho visto ultimamente, che lui è stato lasciato dalla moglie, in Così fan tutti, c'è questo grande Bacri, questo grande commediante francese, che dice, ed è deluso. so, perché la moglie l'ha lasciato, la moglie giovanissima, bellissima, l'ha lasciato, e lui non riesce a scrivere, dice, ma allora che serve soffrire? Non serve neanche. È un po' come quelli che tutta la vita mettono la saccarina del caffè per salvarsi la salute, però tutta la vita berranno un caffè amaro. Tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix. Stavo in questo momento osservando la sacra effigie di San Pippone, che è una divinità di radici senz'altro profane, che però è stata reinterpretata, ripresa e viene adorata dall'Oste della Malora, che è una trattoria ternana. C'è questo santo, un grande segone in mano, che è strumento del suo martirio. Di fronte c'è un lumicino, pare vengano delle signore tedesche, inglesi, queste romantiche straniere che frequentano l'Umbria, l'attraversano alla ricerca delle vie francescane, e recitano questa litania: San Pippone protettore, fa che smogli ogni pudore. Poi non vado avanti perché è in vereconda. 800 24 00 24, stiamo parlando d'amore con Barbara D'Alberti, chiusa nel Faro di Finisterre, e Beppe Neri qui accanto a me. Giulia, eccomi, ciao. Ha una storia devastante anche lei? È una storia abbastanza devastante, perché io sono sposata da parecchi anni e ho parecchi figli. Quanti? 5. Mazza, proprio gli ha dato sotto il marito per tenerla ben legata ai suoi doveri coniugali. Esatto, però adesso mi sono innamorata. Beh, grazie. Dopo la conigliata è chiaro che uno si innamora. E vivendo questa storia fino in fondo, io non lo so dove mi porterà, dico giorno per giorno, però... Ma i figli dove l'ha messi nel frattempo? I figli fanno la loro vita. Quanto c'ha il più grande? Il più grande ha 18 anni. E il più piccolo? 5. Vabbè, posso avere autonomie. No, la cosa che mi diverte è che lei riesce, e questo è un grande onore, è un grande esempio di bricolage domestico, per dire che la dannazione della casalinga è soltanto un'illusione. Lei riesce a provvedere a 5 figli, quindi è una brava madre, immagino, sicuramente lo sarà. E allo stesso tempo riesce a trovare dei suoi spazi per il bricolage amoroso, che comunque impegna in qualche maniera. Sì, assolutamente, strappati via dalla vita quotidiana con le unghie e con i denti. E poi di tenere anche buono il marito, quindi dovrà dare anche a lui dei piccoli e pallidi contentini ogni tanto. O no? Sì, questo è un po' più difficile. Si attenta che non la ingravidi un'altra volta, sennò dopo deve stare ferma un anno. Ride. No, non vorrei proprio, in questo momento l'unica cosa che non voglio. Anche avrebbe un dubbio, un'ambiguità di paternità, che sono quelle cose che poi non fanno bene. No, tragico, no, quello no. Ci stia attenta. Assolutamente. Comunque è una rinascita. È una rinascita. Dopo tante nascite, finalmente una rinascita che la una fa felice. Anche per me, sì, non solo per gli altri, ma è una rinascita mia. Barbara Alberti, dal Faro di Finisterre, lei non trova che in realtà questi figli saranno mai stati felici come in questo momento? Alla fine anche il marito sarà contento. Sicuramente, io trovo... Se vuole può fare domande alla signora. No, lì. No, guarda, io non ho domande, per il fatto che la sua risata mi dice tutto. Cioè, nel senso che tante persone poi hanno questa doppia libidine, no? Hanno un amante e poi si battono il petto giorno e notte, oddio, che faccio, eccetera. Come anche i fumatori che fumano ogni... E lei vive questa cosa, non voglio dire con la parola, senza sensi di colpa, che è veramente nella sua pienezza. Nella sua pienezza, e sicuramente ha ragione Nicoletti, anche i figlioli, anche il marito potranno godere di questo apporto di felicità che lei dà, soprattutto perché non lo vive come un peccato, lo vive come una grande opportunità di gioia nella vita. Pensa quando torna a casa la sera, che belle torte fa, tutta allegra, sì, felice. Tutto permeato, perché poi appunto l'amore non solo moltiplica il tempo, come diceva Nick, ma anche moltiplica la gioia, moltiplica le facoltà. E il marito coniglio, che l'ha trasformata in una fattrice, forse anche lui avrà dei barlumi di felicità, forse. No, perché c'è stata una cosa che lei ha detto: ho fatto 5 figli. E poi dopo, però adesso mi sono innamorata. Però infatti Nicoletti ha detto la conigliata, l'ha definita. Beppe Neri. No, è molto bello questo che diceva la Barbara Alberti, questa passione che traspare, questa sensazione di pienezza di questa persona che vive una condizione come di rinascita la chiama lei, ma quindi riscoperta di universi, di spazi, di modalità di interazione che le erano preclusi o che non pensava che gli si potessero aprire. Beh, quindi se ne è colta di esistere, se n'era scordata, La cosa fantastica è che abbia la voglia, il coraggio, la spudoratezza di venirlo a raccontare a noi questa mattina. Questa è la cosa più bella. Maria Luisa, eccola un'altra. Pronto. Oh, finalmente, sì. Stamattina sono svegliate le sane, piacevoli amiche libertine che mi ascoltano alla radio, che sono sempre state zitte e nascoste, quelle noiose. Amo mio marito da 20 anni. Avanti Maria Luisa, qual è il suo peccato? Ecco, io il mio grande innamoramento l'ho avuto a 12 anni. Vabbè. Io a 12 anni ho conosciuto un uomo che era un operaio di mio papà, di una ditta di falegnameria, e mi sono innamorata, ma di una innamorata persa. E quando poi sei sposata con quest'uomo? Quest'uomo sono sposata molto giovane, perché lui aveva 20 anni già, io ne avevo 15 e ne avevo 12. Quando sono arrivata a 15 anni, purtroppo ero rimasta incinta. Quindi sposata. Consumava in tenera età con quest'uomo? Sì. Adesso io non dico che tutto è stato rose e fiori, no. Per un 10 anni è andato molto. Certo, un ventenne che va con una dodicenne. Sì, adesso sarebbe. Oggi andrebbe in galera al volo. Sì, ero già una donna, però. Sì, ho capito, ma oggi stiamo disquisendo di Rubi Rubacuori, che sì. Ha 17 anni e 11 mesi e 3 giorni e ne dimostra 35. Ecco, questo 20 anni andava con una dodicenne. La mia storia d'amore con mio marito, sposati così, però dopo lui, essendo un po' birichino, insomma, lui. Mi ricordo dopo 10 anni di matrimonio, che io ero ancora giovanissima, avevo 25 anni. 25 anni per lui però era una vecchia, mi scusi. Perché un tradimento da parte sua. Riandava all'asilo a cercarsi altre ragazzine. Però, ma adesso è morto lui? Solo che dopo, sai, io ho perdonato, ma ormai il tardo si era infilato in me. Ho perdonato, adesso io ho 59 anni. E lui dove sta? È appena morto. È a porta, lo so, Dio c'è, signora. Buone cose, arrivederci, in fondo ancora tempo, a 54 anni, la nostra età. Grazie Beppe Neri, grazie Barbara Alberti. L'amore è una cosa meravigliosa, che stamattina l'abbiamo dimostrato. On a continué à tourner, tous les deux enlacés.